Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il 22 gennaio e l'esclusione di Cosentino è il mistero delle liste perdute del PDL in Campania. Abbiamo titolato così la puntata di oggi. L'unica cosa certa di questo affare è certamente l'esclusione di Nicola Cosentino dalla competizione elettorale. Aggiungo uno che prendeva decine e decine di migliaia di preferenze nella sola provincia di Napoli. E se fossero vere le accuse, ripeto, se solo fossero vere le accuse dei magistrati, vorrebbe dire, secondo qualcuno, l'esclusione del presunto punto di riferimento politico del clan dei Casalesi. E sarebbe cosa grave. Il mistero diventa ancora più torbido se si pensa alla sparizione ad un certo punto delle liste del PDL in Campania nella giornata di ieri e i candidati costretti ad un precipitoso rientro a Napoli per una seconda firma. Il giallo si è infittito ancora di più pensando alla conferenza stampa di Cosentino, prima annunciata, poi slittata, nei minuti in cui Silvio Berlusconi parlava di esclusione dolorosa e parlava di un amico vittima dei pubblici ministeri. Qual è il vostro giudizio di quello che sta accadendo in Campania nel PDL? Qual è stato il ruolo, secondo voi, di Nicola Cosentino, un innocente nella tritacarne della giustizia ingiusta, oppure il, come dicono i magistrati, il referente politico del clan dei Casalesi in Campania e dei loro affari? Allora 349-238-6666, i vostri sms. Cominciamo questo racconto da Paolo Piccone, perché Paolo, è stata una conferenza stampa che non è mai esistita. C'è stato un rinvio, a che ora? Sì, allora il rinvio è tra poco alle 14, prima era stata posticipata alle 15, poi hanno anticipato nuovamente alle 14, quindi tra circa 20 minuti dovrebbe esserci questa conferenza stampa, che è stata rinviata perché alle 12, quando doveva svolgersi nella sala dell'hotel del Celso di Napoli, dove mi trovo in questo momento, c'era una troppa ressa di cameraman e fotografi, quindi Cosentino, che è entrato, ha anche fatto una battuta ai fotografi dicendo: tutte queste foto per un impresentabile come me. Quindi la folla Paolo, poi lo chiederò anche a Elisabetta Fiorito. A me pare un po' debole come diciamo, come scusa quella dei giornalisti che assaltavano Cosentino, anche perché Cosentino rinviava la conferenza stampa nel momento stesso in cui le agenzie battevano le dichiarazioni di Berlusconi. Probabilmente Cosentino, molto più probabilmente, stava attendendo qualcosa che al momento, fino a quel momento, fino alle 12, non era ancora arrivato. Infatti il sospetto è rafforzato anche da un altro episodio che è venuto subito dopo il rinvio. Cosentino si è chiuso in una stanza dell'albergo insieme ai deputati Amedeo La Boccetta, Enzo Dan, il senatore Cosimo Sibilia e l'assessore regionale ai trasporti Sergio Vetrella, che fino a quel momento però non si erano visti, tranne La Boccetta, non si erano visti all'Excelsior a Napoli. A porte chiuse, ancora in questo momento stanno dibattendo all'interno di questa stanza dell'Excelsior. Sta di fatto che circolano alcune indiscrezioni sui motivi per cui Cosentino ha convocato questa conferenza stampa, perché secondo alcuni dei suoi tutto quello che è accaduto sarebbe stato studiato a tavolino dalla PDL per fare in modo che Cosentino fosse messo a conoscenza della decisione del partito soltanto all'ultimo momento, per impedirgli così di nuocere magari presentando una lista propria qui in Campania, proprio perché lui raccoglie molti consensi a Napoli e in provincia. Allora Paolo, ti fermo un attimo perché così leggo già le decine di messaggi sms, sono arrivati a 349 238 6666. Dunque, qualcuno dice Cosentino lo rimetteranno dentro dopo le elezioni, secondo dice quello che pensa Roberto. C'è qualcun altro come Serena che si chiede come si faccia ancora a votare il PDL. Sugli indagati nel PDL Nando Raccaglia gli dice perché Formigoni è ancora dentro il partito e lui come gli altri. Un altro ascoltatore dice vi siete dimenticati cosa fece Berlusconi con Amedeo Matacena Junior, qui almeno finge affetto Matacena, addirittura lo disconobbe. Roberto Rabergamo, che è un fan di Fermare il declino, dice perché continuano a votare per il PDL, forse dovevano pensarci prima. Alcuni ascoltatori hanno scritto chiaramente che secondo loro Cosentino è un camorrista, Guido da Bergamo dice suona strano che improvvisamente ci si accorga della questione morale dopo anni di malaffare, siccome hanno perso la città di Napoli. Questo è un altro ascoltatore, si chiama Andrea. Hanno valutato che il personaggio non paga più e quindi hanno scaricato Cosentino. Ormai la connessione tra mafia e Stato in tutti i partiti è lampante, secondo Massimo, che invece dice di essere uno che si asterrà alle prossime elezioni. C'è chi dice che chi vuole andare in Parlamento non deve avere mai ombre e questo vale per tutti. Un altro ascoltatore si domanda chi risarcirà Cosentino e chi pagherà per un eventuale errore giudiziario. Un altro ascoltatore, Marco da Pisa, dice che il PDL è allo sbando in questo momento. Aggiungo io, questa è la sua opinione, in realtà in pochi giorni, in poche settimane Berlusconi è riuscito a prendere parecchi voti e quindi esiste ancora, è ancora molto radicato nel territorio il Popolo della Libertà. Questi sono i vostri commenti sul 349-238-6666. Ma veniamo a Roma, alla Camera, Elisabetta Fiorito. Nei minuti in cui Cosentino rinviava la conferenza stampa, Berlusconi parlava, e cosa diceva? Ecco, appunto, proprio questo è il giallo, a parte le liste, che a un certo punto è stato proprio il Cavaliere che ha detto: abbiamo dovuto chiedere ai nostri amici e colleghi di rinunciare ad essere presenti nelle liste elettorali perché dei PM politicizzati li avevano attaccati e questo fatto è stato divulgato dai media ed era qualcosa che poteva diminuire il consenso. Insomma, Berlusconi si assume la responsabilità di aver escluso gli impresentabili, perché questa querela, Daniele, va avanti da giorni e sembrava il PDL spaccato tra Angelino Alfano, che appunto voleva l'epurazione degli impresentabili, e invece Denis Verdini che li sosteneva. A un certo punto Berlusconi è dovuto intervenire di nuovo, anche domenica era intervenuto da Maria Rotella, ma oggi è dovuto riintervenire proprio nel momento in cui Cosentino aveva indetto la conferenza stampa. Il Cavaliere ha anche ribadito che è stata una scelta dolorosa, a me va il ringraziamento per aver rinunciato di sponte proprie a non essere nelle liste del nostro partito. Sono liste alle quali nessuno potrà portare critiche. E poi il Cavaliere propone anche l'introduzione della cauzione vigente negli Stati Uniti per togliere la tentazione ai magistrati di togliere la libertà a chi viene fatto oggetto di un'accusa che poi si rivela di fatto infondata. Riguardo al futuro governo, Berlusconi ribadisce ancora una volta la sua candidatura a ministro dell'economia e, come Bersani, lancia l'appello al voto utile, a non disperdere quindi il voto nei piccoli partiti. Daniele. Grazie. Allora Paolo Piccone, Elisabetta Fiorito, tanto il dibattito qui ai vostri sms si fa sempre più incalzante. 349-238-6666. C'è un tale che si fa chiamare Nick l'Americano, che dice in modo spiritoso che anche i casalesi hanno diritto al voto, ma io ne scelgo due e c'è una di Maria Rosaria di Foggia che dice: ma se Cosentino è stata negata l'autorizzazione all'arresto, perché ora poi abbandonarlo al carcere? Secondo Maria Rosaria lo hanno fatto per paura, perché è vero il fatto che Nicola Cosentino sia all'interno di una inchiesta importante che va avanti da diversi mesi, anzi ormai da alcuni anni, che riguarda, come dicevo, l'accusa dei magistrati che parla di Cosentino come riferimento politico del clan dei Casalesi. Questo potrebbe voler dire, sempre nel caso che la magistratura andasse avanti e provasse, diciamo, la sua colpevolezza e che i giudici lo condannino, a quel punto naturalmente Cosentino non avrebbe più l'immunità parlamentare. E questi sono i vostri messaggi. Torniamo come sempre alle ore 13:30 di domani con Italia in controluce.